Il Consiglio direttivo rimane fermamente impegnato per preservare l'unicità della politica monetaria e per garantire che vengano trasmesse all'economia reale le decisioni di politica monetaria. Il nuovo piano di possibili acquisti calmieranti di titoli di Stato, chiamato OMT, ha aiutato ad alleviare le tensioni, riducendo le preoccupazioni di scenari distruttivi. Voglio ripetere quanto detto in passato. Stiamo agendo all'interno del nostro mandato, ossia mantenere la stabilità dei prezzi nel medio termine. Agiamo in modo indipendente nel determinare la politica monetaria e l'euro è irreversibile. Siamo pronti ad attivare il nuovo piano di acquisti calmieranti di titoli di Stato una volta che ci saranno i requisiti. Oggi posso dire che siamo pronti con l'OMT, che si tratta di un sistema di protezione efficace una volta che saranno in essere tutti i prerequisiti. Once all the prerequisites are in place as well.